passione per diventare Tom Harry. Dai, ecco. Vuoi giorni grigi? Scrivi a Gigi. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. È chiaro? Alle 2 del pomeriggio suona Gigi. Gigi D'Agostino. 4, 1, 2, Polizei, 3, 4, Polizier, 5, 6, alte Gang, 7, 4, Bumme, 4, 1, 2, Polizei, 3, 4, Polizier, 5, 6, alte Gang, 7, 4, Bumme, 4. Propagando a macchia d'olio, divenendo un emblema sociale e ideologico

dammi il basso. Cassa basso. Marzo 2007, ore 22:30. Officina emotiva. Con Gigi D'Agostino in concerto mentale nella sala sperimentale. Presso la discoteca Karma. Karma. Torino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Forse no, e svegliami. Gigio. Ciao, sono l'inventore del lento violento. Me ne vento. Me ne vento. Lento, violento, lento, violento, lento, violento, lento, e altra storia. Gigi Dag è un suono puro. Suo tamburo, stai sicuro. Go. E nella successione dei fenomeni.